Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Stiamo vivendo giorni tranquilli, molto tranquilli dal punto di vista meteorologico, ma le settimane passate, soprattutto il mese di febbraio, ma anche parte dell'inizio di marzo, è stato un po' problematico dal punto di vista meteo, con conseguenze anche sulle strade, formazione di buche, disagi, problemi, allagamenti, eccetera, eccetera. Disagi che poi si ripercuotono sui nostri mezzi di trasporto e anche ovviamente sulle persone che vi viaggiano sopra. Ben trovato al presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, è iniziata la conta dei danni, possiamo dire, non solo e non tanto i danni fatti dalla pioggia, ma i danni fatti sui mezzi di trasporto e sulle persone. Ah, certamente, quest'anno rispetto ad altri anni ce lo ricorderemo sicuramente, non solo per l'abbondanza delle precipitazioni che abbiamo dovuto sopportare in particolar modo in questi ultimi due mesi, ma soprattutto anche per questa, tra virgolette, strage continua di persone che si sono rivolte ai nostri uffici e che sono state conseguentemente a questa situazione meteorologica vittime di buche sulle strade o di incidenti, scivolamenti sulle rotaie del tram. Certamente un problema che non riguarda anche solo il comune e la provincia di Venezia, ma che riguarda anche altre località, come per esempio anche Padova, che di tram e di rotaie ne hanno sicuramente visto delle belle. Le difficoltà, soprattutto penso alle biciclette, ai mezzi a due ruote, ci sono comunque lì dove ci sono rotaie, figuriamoci dove magari un po' di buca si allarga. Sono successi anche casi di persone che sono rimaste ingessate per alcune settimane per queste cadute. Sì, persone che si sono rotte il bacino o che si sono addirittura rotte i denti o che si sono rotte gli arti, braccia, gambe. Certamente se si parla di biciclette e ci sono delle piste ciclabili a detta loro predisposte in tutta la zona delle rotaie, non si può dire certo per chi si è trovato in motorino o in scooter e a dover frenare sopra la rotaia con conseguente perdita del controllo del mezzo, ma certamente una situazione che credo che per nessuna amministrazione, neanche per quella di Venezia, può essere nuova, perché sicuramente il numero delle vittime che sono rimaste coinvolte in queste situazioni sono state veramente tantissime. E cosa che ha sorpreso di più rispetto agli altri anni sono state anche queste persone che sono rivolte, che hanno attraversato buche o sbriciolamenti di manti stradali e ha ricevuto conseguentemente dei danni ai propri mezzi e alle automobili in particolar modo, e che vogliono, da parte di chi ha l'onere di dover amministrare e manutenzionare le strade, ricevere un adeguato risarcimento delle spese che hanno dovuto sostenere per ripristinare il tuo veicolo, se si tratta del tuo veicolo, o di moto nel caso di motocicletta. Il buon senso e anche la legge dicono che è il proprietario della strada, qualunque ente sia, anche un privato, che deve mantenere la strada in ordine per evitare problemi alle persone. Però mi metto dalla parte di un ente pubblico, di un comune, di una provincia, la quale prima di arrivare a darti il risarcimento magari verifica se tu ti sei attenuto a tutte le normative della sicurezza, se andavi troppo forte, se andavi piano, se eri posizionato giusto. Quindi riuscire ad avere il risarcimento probabilmente non è così facile, anche se è dovuto. Allora, innanzitutto sarebbe molto più semplice utilizzare i vigili anche per evidenziare certi ostacoli che potrebbero crearsi in certe condizioni, anziché mandarli fuori solamente a fare multe o a mettere telecamere, perché comunque anche le forze dell'ordine, in particolar modo i vigili urbani, dovrebbero avere un compito di prevenzione e non quello di fare gli esattori del fisco. Certamente i tempi non sono mai incoraggianti, però abbiamo visto che poi chi persevera ottiene sempre giustizia. Certo è che in prima battuta, soprattutto il comune, se si parla di tram, o di altri enti, perché ricordiamo che le strade possono essere comunali, provinciali o regionali e il risarcimento deve essere rivolto sempre all'ente di appartenenza in cui la strada è assegnata, e tutte le strade lo sono, i famosi P, R e C che sarebbero iniziali di regione, comune e provincia. Certamente loro tendono sempre a fare un po' l'orecchio da mercante, però abbiamo visto che alzando un po' i toni e sapendosi rivolgere in questo caso come all'Adico rispetto che magari in maniera autonoma, si riesce a ottenere comunque un adeguato riscontro a quelle che sono le giuste pretese che le persone insomma hanno ragione di avanzare. Oltre all'ovvio certificato medico del caso, cos'altro serve per dimostrare che il danno, l'incidente è avvenuto proprio lì e proprio magari per quella buca, per quel problema si è verificato? Se si tratta di un incidente è sempre necessario anche avere buona norma, munirsi di una denuncia, però è anche vero che materiale fotografico, testimoni, tutto quello che può servire per poter descrivere la situazione e raccontare un pochino anche quello che è accaduto può certamente aiutare a risolvere la vicenda, ma almeno il materiale fotografico, che riteniamo sia il materiale più semplice da reperire anche perfetto di questi telefonini che molti che abbiamo, è la prima cosa che si debba fare, e poi essere precisi sulla quella che è la data e gli orari in cui la cosa è accaduta, perché poi ricostruire i fatti bisogna sempre un pochino altrimenti faticare. Dunque, con l'insistenza, con la perseveranza si possono ottenere anche questi risarcimenti e casi che nelle ultime settimane purtroppo si sono verificati. Tra un paio di giorni ritroviamo l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre e cominciamo ad inoltrarci nella giungla della TASI. Grazie al Presidente Carlo Garofolini, alla prossima. Grazie a te amico, un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.